Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Torna a crescere l'occupazione dopo 4 mesi di flessioni. A luglio l'Istat registra 85.000 posti di lavoro in più. Scuola al via l'anno scolastico coi corsi di recupero, niente mascherine in classe, mezzi pubblici quasi pieni nelle linee guida definitive. Libia, il ministro degli esteri Di Maio a Tripoli, pronto il rilancio del piano Berlusconi del 2008. Incentivi auto verso l'esaurimento per i modelli diesel e benzina, scenario da click day da oggi, 1 settembre si accede al sito per richiedere il bonus. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Dunque, ripartiamo ancora una volta dalla scuola, perché con l'avvio dei corsi di recupero di fatto da oggi riparte ufficialmente l'anno scolastico, anche se, come sapete, non in tutte le scuole i dirigenti scolastici sono riusciti ad organizzarli e ad organizzarli in presenza. Intanto ieri sono state definite le linee guida definitive, dalle mascherine ai trasporti. Niente mascherine in classe, ma solo se si potrà rispettare la distanza di 1 metro tra i banchi. A indicare la rotta agli alunni di elementari e medie è il Comitato Tecnico Scientifico in vista della ripresa delle lezioni. Nella scuola primaria, sostengono gli esperti del CTS, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale si può fare a meno della mascherina se si è seduti al banco e si rispetta la distanza di sicurezza di 1 metro, ma se si è impegnati in attività quali ad esempio il canto, la bocca va coperta. È comunque necessario, puntualizzano gli esperti, non abbassare la guardia e rispettare tutte le regole basilari di prevenzione, come l'igiene della persona, lavarsi spesso le mani, ricambio d'aria negli spazi comuni e pulizia delle classi. A scuola si tornerà ufficialmente il 14 settembre, ma alcune regioni hanno deciso di anticipare o posticipare l'inizio dell'anno scolastico. L'Alto Adige indica il 7, il Friuli il 16, la Sardegna il 22, Puglia, Calabria e Abruzzo il 24 settembre. Regioni e governo hanno poi raggiunto l'intesa sull'uso dei mezzi di trasporto. Su autobus, scuola, bus, metro e treni regionali si potrà viaggiare all'80% della capienza con l'obbligo della mascherina. Sarà possibile occupare il 100% dei posti solo per spostamenti inferiori ai 15 minuti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo dei dati Istat sul mondo del lavoro, sul mercato del lavoro italiano, che certificano da un lato la frenata dovuta alla crisi Covid, con ben 500.000 posti di lavoro che si sono persi da febbraio, ma dall'altro lato c'è anche un segnale di incoraggiamento, un segnale di ripresa, perché a luglio, dopo 4 mesi di flessioni consecutive, l'occupazione invece torna a crescere. Il Covid brucia 500.000 di posti di lavoro, lo certifica l'Istat diffondendo i dati di occupazione e disoccupazione, dai quali si scopre che tornano ad aumentare a luglio gli occupati dopo il lockdown, ma la disoccupazione sale soprattutto fra i giovani. L'Istituto di Statistica ha registrato 85.000 occupati in più su base mensile, mentre dall'inizio della pandemia sono 500.000 in meno. Sale anche il tasso di disoccupazione al 9,7%, ma è l'effetto del ritorno alla ricerca di lavoro da parte degli italiani. Scendono infatti gli inattivi. Il tasso di disoccupazione giovanile preoccupa molto, perché è tornato sopra il 30% a luglio, per la prima volta da oltre un anno. L'Istat lo attesta al 31,1% per la fascia di età 15-24 anni, in aumento sia su base mensile che annua. Su base annua, sottolinea l'Istituto di Statistica, la disoccupazione cresce tra i minori di 35 anni e cala nelle altre classi di età. Valentina Furlanetti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo all'estero, in Libia. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio è arrivato, si trova adesso a Tripoli per una visita che lo vedrà incontrare il capo del governo di accordo nazionale Fayez al-Sarraj, ma anche il presidente del Parlamento di Tobruk. Visita a Tripoli per il ministro degli esteri Di Maio, accompagnato dal sottosegretario Manlio Di Stefano, presentato alle controparti, il premier al-Sarraj e il presidente del Parlamento di Tobruk Saleh, come riferimento della costruenda commissione italo-libica sulle questioni economiche. Col generale Haftar all'angolo e il cessate il fuoco sostenuto anche da Russia e Turchia, l'Italia cerca ora di rilanciare le relazioni bilaterali, proponendo ai libici, secondo il Corriere della Sera, la riattivazione di alcuni capitoli dell'accordo firmato da Silvio Berlusconi e Gheddafi nel 2008, in cui ci si accordava sulla realizzazione di opere infrastrutturali in Libia e sul contrasto all'immigrazione clandestina. Istituiamo la commissione il prima possibile, ha commentato il premier al-Serraj ricevendo il ministro Di Maio. Vogliamo che le imprese italiane vengano qui per sostenere lo sviluppo e la crescita della Libia. Con le tante imprese che però già vantano crediti per lavori iniziati e mai finiti per la guerra, soddisfare le aspettative di tutti non sarà cosa facile. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore. E sulla complessa situazione che riguarda la Libia, in particolare i temi che saranno al centro della visita di Luigi Di Maio, vi proponiamo anche l'analisi di Daniele Biacchessi. La missione in Libia del ministro degli esteri Di Maio giunge in uno dei momenti più complicati della vita politica del paese. Il premier al-Sarraj ha assicurato provvisoriamente il ministro dell'interno Bashagha. La sua sospensione riguarda l'apertura di un'inchiesta amministrativa su permessi e autorizzazioni e sulle dichiarazioni di Bashagha relative alle recenti manifestazioni a Tripoli, terminate con il ferimento di manifestanti che protestavano contro la corruzione e il deterioramento delle condizioni di vita da parte dei miliziani filo-Sarraj. In particolare, Bashagha aveva accusato queste formazioni di aver sequestrato manifestanti e aveva minacciato di ricorrere alla forza per difenderli. La diplomazia italiana non intende interferire nello scontro politico interno alla Libia, ma mette comunque sul tavolo delle trattative alcuni punti rimasti scoperti nel tempo: la cosiddetta autostrada della pace, l'aeroporto di Tripoli, soprattutto i crediti chiesti dalle aziende italiane e i progetti di comune interesse per il rilancio delle relazioni economiche. Tutti temi importanti che rischiano però di restare solo sulla carta, condizionati da una crisi istituzionale senza precedenti e dalle prime avvisaglie di una nuova guerra civile in Libia. È intanto diretta verso Palermo la nave Sea-Watch 4 che ha soccorso in mare 353 persone provenienti proprio dalle coste libiche. Si profila una soluzione per i migranti a bordo della Sea-Watch. Secondo un tweet della ONG, a 11 giorni dal primo soccorso, le 353 persone a bordo sono dirette al porto di Palermo, dove saranno trasferite su una nave per un periodo di quarantena. Ma il leader della Lega, Matteo Salvini, minaccia di denunciare il governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Intanto 14 tunisini sono stati arrestati dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento dopo essere sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa. Alcuni rientrati illegalmente, altri destinatari di decreto di espulsione. Tutti e 14 sono ai domiciliari in una struttura per migranti. E un veliero con a bordo una sessantina di persone si è arenato nella notte sulla spiaggia di località Alfieri, a poca distanza da Capo Colonna, Crotone. È il terzo sbarco in 3 giorni. I migranti si sono tuffati in acqua e poi si sono incamminati in direzione di Crotone. Le forze dell'ordine ne hanno rintracciati 45 lungo la strada provinciale per Capo Colonna. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre in Sicilia sono attivi una serie di incendi che preoccupano a Lipari. Le fiamme sono arrivate vicino alle abitazioni, mentre ad Altofonte i roghi non si fermano da 72 ore. L'ultimo rogo è scoppiato a Lipari, la più grande delle isole Eolie. Anche in questo caso l'ipotesi è che si tratti di un incendio di origine dolosa. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno interessato la zona di Quattropani, Castellaro, Madoro Monte Sant'Angelo e Varesana. Paura tra gli abitanti e i villeggianti delle aree interessate quando le fiamme alte si sono avvicinate alle abitazioni. Brucia ancora il bosco di Altofonte, in provincia di Palermo, dove sono stati distrutti 900 ettari di vegetazione. L'incendio va avanti da oltre 72 ore nonostante la pioggia e le temperature decisamente più basse. In questo caso l'ipotesi è che gli incendiari abbiano appiccato le fiamme in più punti nella serata di sabato, quando già i Canadair non potevano più alzarsi in volo. E così per tutta la notte il fuoco si è alimentato non lasciando scampo al bosco della Moarda. Intanto un incendio si è sviluppato a Piana degli Albanesi, sempre nel palermitano. La CGIL siciliana ha annunciato che presenterà un esposto alla magistratura per accertare le responsabilità. Nina Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E se in Sicilia a preoccupare sono gli incendi, nel resto d'Italia, soprattutto al nord, è ancora il maltempo a creare qualche preoccupazione. Oggi allerta arancione in Veneto, gialla in Abruzzo. Intanto a Verona la paura per il rischio di esondazione è fortunatamente passata. La situazione è tornata gradatamente alla normalità, mentre a Cortina, dopo i nubifragi dei giorni scorsi, le cime montane che circondano la città appaiono tutte spruzzate di neve. E da oggi sul sito del governo scatta anche formalmente la possibilità di richiedere il bonus auto. Riparte la corsa agli incentivi auto con la possibilità di prenotare il contributo sulla piattaforma Ecobonus del Ministero dello Sviluppo Economico. Il decreto di agosto ha rifinanziato con ulteriori 400 milioni le misure a sostegno del settore auto, suddividendo ulteriormente le categorie di autoveicoli finanziabili in base alle emissioni di anidride carbonica e introducendo così altre due fasce. La prima per i modelli fra 61 e 90 grammi per chilometro di CO2, la seconda per quelli fra 91 e 110. Se la pressione di mercato sui modelli a basse emissioni, per lo più elettriche e plug-in, è relativa, grande invece l'interesse per i contributi in piedi fino al 31 dicembre destinati a quei modelli a motore che potranno quest'anno contare su aiuti straordinari, che rischiano però di esaurirsi nel giro di pochi giorni, come è accaduto già per la finestra aperta dal decreto rilancio. Quest'ultima tipologia di ecobonus può essere richiesta per i veicoli acquistati e immatricolati dal 15 agosto scorso. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. 13:11, facciamo una piccola pausa. Dopo la sintesi della giornata, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie e gli approfondimenti. Ripartiremo dalla sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, con la quale commenteremo insomma le decisioni che riguardano la scuola, se cercheremo di capire se non sono un via liberi tutti, il fatto di riempire la capienza dei mezzi di trasporto fino all'80%, ma anche il fatto di non utilizzare la mascherina nelle scuole. E poi luci e ombre del mercato del lavoro, l'abbiamo appena sentito, i dati Istat, meno 500.000 posti di lavoro da febbraio fino ad oggi, ma ci sono anche segnali di incoraggiamento nel mese di luglio. Tra poco, 349-238-6666. Un giro per gli spettacoli più suggestivi d'Italia, una tournée radiofonica delle prime nazionali, un punto con interviste ai grandi dello spettacolo. Tutto questo è Cartellone, l'appuntamento settimanale per trovare quello che fa per voi. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto sabato prossimo, 5 settembre, alle 15:15, per portarvi a sognare in tutti i teatri d'Italia. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Scuola via i corsi di recupero, parte ufficialmente l'anno scolastico. Niente mascherine in classe, mezzi pubblici quasi pieni nelle linee guida definitive. Meno 500.000 posti di lavoro da febbraio secondo l'Istat, ma dopo 4 mesi l'occupazione torna a crescere di 85.000 unità. Libia, il ministro degli esteri Di Maio a Tripoli, pronto il rilancio del piano Berlusconi del 2008. Incentivi auto verso l'esaurimento per i modelli diesel e benzina, scenario oggi da Click Day. Alle 13:15 è con noi la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito, Zampa. Allora, con lei, per commentare, anche se non è strettamente di sua competenza il tema della scuola, però insomma, il governo, il ministro Azzolino l'ha detto chiaramente, è un tema che riguarda diverse competenze. Del resto la sicurezza insomma sanitaria, la salute è questo sì un tema di sua competenza, perché insomma ieri è stato trovato l'accordo su queste linee guida per quanto riguarda da un lato il tema del trasporto pubblico, con una possibilità di ricorrere a una capienza fino all'80% dei mezzi di trasporto, ma si può salire fino al 100% per i tragitti più brevi, se abbiamo ben interpretato. Sì, ma lì è lo scuolabus. Lo scuolabus, adesso ci spiegherà tutto perfettamente. Dall'altra parte c'è anche il tema delle mascherine, che non saranno obbligatorie durante le ore di lezione per nessuno, anche questo era un tema un po' in forse. Le chiedo uno sforzo anche così, diciamo, da commentatrice e insomma da cittadina italiana, perché sembra, le chiedo se condivido o no questa lettura, no? Dopo tante discussioni, un po' all'italiana verrebbe da dire, abbiamo alzato l'asticella tantissimo, abbiamo aspettato mesi per parlare di come tornare a scuola in sicurezza, poi alla fine autobus pieni. Anche il tema della mascherina, per esempio, non si userà la mascherina, insomma ci sono anche delle ragioni per farlo, però insomma alla prova dei fatti sembra che le asticelle poi cadano a terra miseramente e si fa quello che si riesce a fare. È una lettura superficiale o c'è qualche cosa che lei condivide di questo? Si è trovato un punto di intesa tenendo conto di molte variabili. Se lei non spiega che le mascherine si possono non indossare mentre si è seduti al banco, quindi si è a distanza, è evidente che se lei invece la generalizza e dice non si portano le mascherine, sembra che noi abbiamo deciso che si può fare a meno della mascherina. In realtà il verbale del Comitato Tecnico Scientifico comincia esattamente al contrario, dicendo che la mascherina è fondamentale, che le mascherine vanno sempre indossate, ma poi si va per eccezioni. Quindi se si è seduti al proprio banco e si è distanti durante la lezione scolastica, si può non indossare la mascherina. È evidente che ti alzi dal banco e vai a fare la ricreazione, la mascherina te la devi mettere. Sì. Così come la mascherina te la devi mettere in tutti i luoghi in cui è possibile un assembramento. Assolutamente, mi permetta solo... Noi bambini abbiamo sempre detto no, perché fino a 6-10 anni è no la mascherina, per ragioni che sono facilmente intuibili, ed è ovvio che... Tra l'altro, da un bambino è molto più complicato immaginare che non si muova e che quindi comunque non puoi mettere e togliere la mascherina continuamente. E si presuppone che i ragazzi dai 10 anni in su, i nostri più giovani, gli adolescenti, siano in grado di comprendere, e che il professore ovviamente e soprattutto il personale tecnico, così come il responsabile che ogni scuola dovrà avere proprio per la gestione del Covid, invece ti facciano mettere la mascherina quando tu ti allontani dal tuo banco e ti assembri, con, diciamo così, con assolutamente un brutto verbo. Se mi posso permettere di aggiungere solo una cosa per quanto riguarda le mascherine, poi parliamo dei mezzi di trasporto. È stato, credo, almeno personalmente, più l'attesa di questi mesi di discussione, nei quali invece la mascherina era stata inserita quasi come un mantra, anche diciamo nell'ipotesi all'interno dell'attività scolastica, quando invece in Germania da mesi, alla riapertura della scuola, si è sempre detto molto semplicemente la mascherina, quando i ragazzi sono seduti e distanti, non è necessaria. Quindi forse sì, un po' di confusione nell'attesa. Della discussione finita sui media, a volte finiscono malamente, cioè finiscono solo stralci. È possibile che sia ancora una volta colpa nostra. Scherzi a parte, no, è solo una battuta. Anche è solo una battuta. Se le dà magari solo per una parte, no? Cioè, e comunque anche di questa straordinaria nostra vocazione alla discussione. Va bene, questo prendiamolo come spunto positivo. Invece per quanto riguarda l'altro tema, questo sì, quello dei mezzi di trasporto, una capienza fino all'80%, il governatore della Toscana Rossi dice è una follia, a quel punto tanto valeva dire 100% e chiuderla lì. Allora, guardi, la decisione è maturata ieri sera al termine di una conferenza molto complicata. Il Ministero dei Trasporti ha raggiunto, diciamo, nella discussione questo indice dell'80%, il CTS alla fine ha, credo, dato il via libera. In ogni caso, io penso che sia, anche dal mio punto di vista, sia un, diciamo, un livello di capienza piuttosto alto. In questo caso però, come lei sa, c'è l'obbligo delle mascherine, c'è l'obbligo dell'igienizzazione. Tutt'altra questione è quella invece dello scuolabus, perché il riempimento totale è solo per gli scuolabus che normalmente svolgono un servizio in centri anche abbastanza piccoli oppure in tragitti abbastanza piccoli, e quei 15 minuti vanno calcolati dal momento in cui tu carichi l'ultimo e cominci a scaricare i primi che hai caricato. Non so se sono stata chiara, me lo sono fatto spiegare anche io. Cioè tu carichi l'ultimo gruppo di studenti alla fermata XY, però poco dopo cominci già a scaricare quelli che arrivano nella prima scuola. Quindi, tra l'altro, la durata che è stata calcolata, in questo caso dagli esperti tecnici, è quella di 15 minuti, fino a 15 minuti tutto completo e non di più di così. Ma questo è una, lasso di tempo che è stato considerato tra l'ultimo che sale e il primo che scende. Certo, assolutamente. Senta Zampa, invece un altro punto voglio toccare con lei prima di salutarci, che è importante, riguarda il tema dei vaccini, perché a settembre molti cominciano a pensare alla vaccinazione per l'influenza stagionale, il classico vaccino che fanno le persone di una certa età, chi ha delle patologie, eccetera eccetera, e in tanti si domandano come si lega il tema di questo vaccino con l'eventuale altro vaccino anti-Covid che notizie ci dicono che potrebbe già entro la fine dell'anno o inizio dell'anno prossimo già essere in circolazione. Come ci si deve comportare? Quali sono le indicazioni? È fondamentale farsi il vaccino anti-influenzale, prima di tutto perché i sintomi dell'influenza sono nell'esordio del tutto simili a quelli del Covid, quindi bisogna evitare assolutamente di precipitarsi magari pensando di avere altro al pronto soccorso. E certamente anche ci sono alcune studi che mostrerebbero che c'è una tenuta diversa. Devo dire però che siccome su questo dal punto di vista scientifico è stato scritto sia che è influente sia che invece è influente, io credo che dobbiamo attenerci al primo che invece è certo, e cioè che non diffondere l'influenza, avercela il meno possibile, fare ricorso al medico perché abbiamo anche un problema di sistema sanitario, e comunque mettere in sicurezza le persone più fragili con il vaccino antinfluenzale, quindi dall'influenza che può avere ricadute molto pesanti, pensi solo anche al fatto che può trasformarsi in una polmonite, ecco, questo è assolutamente da fare. Da qui la raccomandazione, la circolare che il Ministero già nei mesi scorsi ha provveduto a diffondere alle regioni, di comprare più quote di vaccino e di fare in modo che la vaccinazione venga garantita alle persone anziane, ai bambini, ai medici, agli infermieri, a tutti coloro che lavorano nel sistema sanitario e alle categorie che sappiamo tradizionalmente fragili. Va bene, grazie allora dunque al sottosegretario Sandra Zampa, grazie per essere stata con noi. Allora, cari ascoltatori, adesso vi facciamo risentire velocemente, sempre tornando al tema invece dei mezzi di trasporto, la capienza, i mezzi di trasporto pubblici naturalmente, la capienza dell'80%, che cosa ne pensa, qual è il giudizio su questo compromesso, che evidentemente è un compromesso un po' a ribasso che è stato raggiunto ieri sera, il presidente dell'ANCI Antonio De Caro, l'associazione che rappresenta tutti i comuni italiani. Vi ricordo che i mezzi di trasporto locali sono di competenza degli enti locali, delle regioni in particolare. Sentiamo De Caro ai microfoni questa mattina di Simone Spezia. È una norma che vuol dire e non vuol dire, nel senso che se si vuole rispettare il distanziamento bisogna stare a un metro e quindi la capacità di carico dei mezzi di trasporto si riduce notevolmente. Questo significa avere maggiori risorse perché aumentano le percorrenze chilometriche, c'è bisogno di più autobus, di più consumo di carburante, di un numero maggiore di autisti, e ovviamente dal punto di vista economico non regge. Onestamente anche con risorse maggiori diventa difficile assicurare poi i mezzi di trasporto in più, perché un autobus in più, uno scuolabus in più non lo riesce a reperire nel giro di qualche giorno. Una mediazione tra il rispetto, tenendo conto che c'è l'obbligo della mascherina e che il viaggio soprattutto sul trasporto urbano, anche quello extraurbano e sugli scuolabus è un viaggio limitato nel tempo, come minuti, utilizzare la mascherina obbligatoria, far areare il mezzo di trasporto aprendo i finestrini, comunque è un modo per ridurre notevolmente la possibilità del contagio, e quindi si è scelta questa mediazione, l'obbligo della mascherina e magari andare in deroga al distanziamento di un metro perché il tempo di esposizione al potenziale contagio è ridotto. Si dà la possibilità a tutti di salire sul mezzo di trasporto, altrimenti rischiamo di lasciare a terra i bambini, gli studenti delle scuole superiori, dei licei, anche i pendolari. Allora, tra poco, poi nell'ultima parte di Effetto Giorno, parleremo ancora di trasporti, ma per quanto riguarda la possibilità di accedere da oggi sul sito del governo al bonus auto, quindi tutt'altra questione. Adesso invece con Chiara Mussida, docente di economia del lavoro all'Università Cattolica del Sacro Cuore, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Vogliamo rapidamente così commentare, spiegare i dati Istat sul mercato del lavoro, sull'occupazione e la disoccupazione usciti questa mattina, perché da un lato Mussida ci confermano, diciamo, la grave emorragia di posti di lavoro che c'è stata con la crisi Covid, di meno 500.000 posti da febbraio ad oggi. Dall'altro però c'è anche un segnale di incoraggiamento, un'inversione di tendenza, perché a luglio per la prima volta c'è stata una crescita, 85.000 occupati. Le chiederei di partire dal dato macro e le chiederei, diciamo, come la crisi ha in qualche modo cambiato, trasformato il mercato del lavoro. Chi sono queste 500.000 persone che hanno perso il lavoro in questi mesi? Diciamo che ovviamente i dati di luglio sono un pochino incoraggianti rispetto a quelli di febbraio, come giustamente ha sottolineato lei, però la crisi c'è, è molto grave. Abbiamo visto anche i dati di ieri proprio sul PIL, che ci dicono una perdita del 12,8%. Per l'occupazione c'è stato un pochino di respiro, e lo è stato soprattutto per i dipendenti a tempo indeterminato. Diceva lei, invece, l'aspetto più critico resta per coloro che hanno un'occupazione a termine, che hanno recuperato di poco, ma sono ancora, dal punto di vista più di lungo periodo, in perdita. E anche gli autonomi. Gli autonomi stanno ancora perdendo, o indipendenti, diciamo, hanno perso circa 60.000 unità, e in questo caso diciamo che la situazione è piuttosto grave. Ecco, quindi lavoratori autonomi e contratti a tempo determinato a termine, sono le categorie, esatto, più colpite. Esatto. C'è anche la disoccupazione giovanile, che supera, certo, il 30%, e anche questo è stato aggravato, questo dato, dalla crisi, questo, sì, dato già strutturale. Esatto, perché appunto a quello che diceva lei vanno associate le caratteristiche individuali più in crisi, oltre a essere a termine c'è il giovane. Il giovane iniziava un po' a recuperare, ma attualmente c'è stato un aumento appunto della disoccupazione giovanile, quindi 15-24 anni addirittura di più, perché la crescita dell'occupazione è riguardata dai 35 in su. E il tasso di disoccupazione giovanile supera ancora il 30%, che è un problema che ci portavamo già dalla precedente prima della crisi, naturalmente. Esatto. Senta, invece, per quanto riguarda i dati, diciamo, positivi, incoraggianti, questo mese di luglio con, sì, più 85.000 occupati, sì, cosa ci dicono? C'era da aspettarsi o che prima o poi ci fosse un'inversione? È un dato sufficiente, sì, per, sì, far sperare? Non sufficiente, perché ovviamente si tratta di un mese, siamo luglio 2020, questi dati riguardano, quindi non è sufficiente per avere un'inversione di tendenza, assolutamente no. Però l'aumento dell'occupazione ci fa ben sperare in una ripresa, soprattutto per le assunzioni, hanno iniziato un po' ad assumere i dipendenti permanenti, e per le caratteristiche individuali, ricollegandomi a prima, c'è stato un aumento per le donne, quindi un po' di speranza anche per la componente femminile, che è sempre stata un po' più penalizzata. Poi abbiamo, vabbè, gli over 35 e per motivi di prepensionamento quelli con più di 50 anni. L'altro aspetto un po' positivo sembra una riduzione dello scoraggiamento, perché si è ridotta un po' l'inattività, ritornando sempre al macro che ci guida, e che però appunto si è riversato anche un po' sulla disoccupazione. Bene, prego, conclude, poi la salutiamo. Certo, l'altro aspetto positivo è che appunto sono un po' aumentate anche le ore lavorate pro capite, che si erano ridotte inevitabilmente a causa della crisi sanitaria, quindi il distanziamento, il lockdown e quant'altro. Quindi anche la qualità del singolo posto di lavoro, diciamo, c'è un recupero con l'aumento delle ore lavorate da ognuno di noi. Grazie alla professoressa Mussida, grazie per essere stata con noi. Sono le 13.30, noi andiamo sulla pubblicità, poi ci sono informazioni di borsa, naturalmente torneremo tra poco. www.ecobonus.mise.gov.it è il sito dove si fa domanda per il bonus auto, ne parliamo tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste notizie di oggi: torna a crescere l'occupazione dopo 4 mesi, l'Istat registra 85.000 posti di lavoro in più a luglio, ma da febbraio se ne sono persi 500.000. Scuola al via l'anno coi corsi di recupero, niente mascherine in classe, mezzi pubblici quasi pieni intanto nelle linee guida definitive. Libia, il ministro degli esteri Di Maio a Tripoli, pronto il rilancio del piano Berlusconi del 2008. Incentivi auto verso l'esaurimento per i modelli diesel e benzina, scenario da Click Day, ne parliamo tra poco. minuti, cari ascoltatori, eccoci qua ai vostri messaggi al 349-238-6666 sulla questione scuola, mascherine, mezzi di trasporto. Ne leggo uno perché domina, almeno nei messaggi, un po' di scetticismo, e siccome sono ragionamenti che sento fare anche in giro, anche se verrebbe da non crederci, però insomma dice questo ascoltatore, riassumendo, abbiamo mandato in rovina tutto il settore dell'intrattenimento, poi i ragazzi non possono andare in discoteca o ad un concerto una volta alla settimana, ma alla fine possono ammassarsi sui mezzi pubblici senza remora tutti i giorni. Ora, io sono stato abbastanza critico nei confronti di questa misura sui mezzi di trasporto pieni all'80%, però un conto, cioè non confondiamo, perché un conto è rischiare per andare a scuola, un conto è rischiare per andare in discoteca, un conto è rischiare l'infezione avendo in mente la priorità dell'istruzione dei giovani d'oggi, un conto è parlare di questo per una questione che ha a che fare col divertimento, con tutto il rispetto per le discoteche, però sono due cose un po' diverse. Se non abbiamo chiaro questo, credo che non andiamo da nessuna parte. Credo. Il punto di Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Ora che viviamo lo spleen classico dell'estate che sta finendo, proviamo a fare un bilancio del cosiddetto bonus vacanze, che è poi un simbolo di come il governo ha concepito in generale la risposta alla devastante crisi da Covid. Dei 2,4 miliardi messi in campo per il bonus, ne sono stati spesi in realtà 615 milioni. 1,4 milioni di famiglie si sono iscritte alla app per usarlo, ma soltanto una su tre lo ha effettivamente attivato. Che cosa non ha funzionato? Ad esempio il fatto che fosse disponibile per redditi fino a 40.000 euro, forse in difficoltà ad andare in vacanza anche con un bonus, o che l'idea di 500 euro accreditata come valida per tutti fosse in realtà valida soltanto per famiglie numerose, o il fatto che fosse complicato il meccanismo, l'80% come sconto sulla fattura dell'albergo e il 20% come detrazione fiscale per il vacanziero. Gli albergatori che devono aspettare il rimborso da parte dello Stato o cedere il credito a qualche banca non hanno mai gradito di fare da bancomat per lo Stato. La conclusione è una sola: meglio delle mance sono incentivi strutturali, soprattutto per un settore così importante, perché si rimetta in piedi e riparta con le sue gambe. E allora, da un bonus all'altro, questa volta, come anticipato, parliamo non del bonus vacanze, di cui si è occupato Alberto Orioli, ma del bonus auto, perché da oggi è possibile accedere sulla piattaforma del governo www.ecobonus.mise.gov.it, ve l'ho letto integralmente proprio perché così può essere un'informazione utile, per accedere alla seconda tranche del bonus auto. Ne parliamo con Andrea Giuricin, economista dei trasporti all'Università Milano Bicocca. Ben ritrovata Andrea, buongiorno. Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Allora, partiamo da un dato però, anzi, inquadraci questo bonus. Quant'è il montante che il governo ha stanziato per questa seconda tranche? E poi parliamo anche degli inghippi che ci sono, perché ci sono già in coda delle domande e il rischio di un intasamento sembra abbastanza alto. Come funziona il bonus? Beh, innanzitutto bisogna ricordare che è la seconda tornata di bonus, nel senso erano stati fatti i primi bonus dal 1 agosto, circa 50 milioni di euro, e adesso invece sono stati stanziati altri soldi, altri circa 100 milioni di euro. Quindi la cosa interessante è che siamo alla seconda tornata. Qual è il problema? Il problema è che molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, come abbiamo già visto ad agosto, l'importo stanziato dal governo per far ripartire, ricordiamo, un settore come l'automotive, che è estremamente importante per l'Italia, è sicuramente insufficiente. E l'altro punto, a mio parere, da ricordare è che questi bonus arrivano ad agosto, quando in realtà ce n'era sicuramente bisogno già da giugno, alla fine, diciamo, del lockdown di maggio, cercare di far ripartire immediatamente il mercato. Ecco, questo mercato, Andrea, come è possibile fotografarlo adesso in questa fase, diciamo, di crisi? Abbiamo appena letto i dati dell'occupazione, c'è cioè una leggera ripartenza a luglio, ma tutto questo settore, auto, scooter, biciclette, monopattini, c'è tutto l'elettrico, che impatto ha avuto la crisi e sta avendo ancora su questo settore? Beh, L'impatto è stato indubbiamente veramente, direi, devastante, almeno per tre mesi, praticamente quasi tre mesi non si sono vendute auto, quindi anche i concessionari, tutti i grandi concessionari hanno avuto gravissimi problemi, per questo era necessario ripartire in fretta. Teniamo in considerazione che rispetto nei primi sette mesi dell'anno, rispetto ai sette mesi del 2019, stiamo parlando di cadute di oltre il 40% del mercato. Ed è vero che la caduta ad oggi è inferiore per quanto riguarda il mese di luglio, che sono gli ultimi dati disponibili, e stiamo parlando di un meno 11%, ma è altresì vero che comunque siamo sotto i livelli del luglio del 2019, quindi c'è sicuramente molta difficoltà per tutto il settore dei trasporti e il settore automotive è uno di quelli che ha subito maggiormente questa crisi. È difficile chiederti questa valutazione, ma te la chiedo lo stesso, perché da un lato su un piatto della bilancia ci sono le valutazioni di carattere economico, perché l'auto tradizionale ha sempre avuto un peso molto importante proprio anche nell'economia, perché è stato un po', come dire, il prodotto principe, no, di tutta una lunga fase dell'economia. D'altra parte sappiamo che la soddisfazione individuale di ognuno di noi oggi, per quanto riguarda la capacità di spostarsi, può essere soddisfatta da altri mezzi, monopattino, bici elettriche, bici a pedalata assistita. C'è tutto un settore che sta emergendo. Che bilancio possiamo fare tra questi due aspetti, secondo te, a questo punto? E in che modo sta cambiando l'equilibrio tra questi due, i due piatti della bilancia? Sì, assolutamente. In realtà era un cambiamento già in atto. Se pensiamo anche agli stessi monopattini, giusto per portare ad esempio i monopattini elettrici nelle altre città europee, ma anche in Italia, in alcune città già da diversi anni, in Italia forse dall'anno scorso, si stava andando verso questi nuovi tipi di mobilità. È indubbio che la mobilità cittadina e la mobilità in generale stia cambiando sotto grandissimi forze di cambiamento, pensiamo all'auto elettrica, ma anche appunto a questi nuovi mezzi di mobilità. Quindi tutto sta cambiando e questa crisi Covid molto probabilmente ha reso più veloce questo cambiamento che era già in atto. Quindi è stata, diciamo, una spinta ulteriore a questo cambiamento della mobilità che stava avvenendo già negli ultimi anni. Un'ultima cosa, Andrea Giuricin, te la voglio chiedere sulla decisione che è arrivata ieri, che riguarda un altro settore dei mezzi di trasporto, quelli pubblici, per quanto riguarda la ripartenza della scuola e la crisi Covid, questo, diciamo, limite di saturazione fino all'80%. Cosa ne pensi? Si è parlato di un compromesso un po' a ribasso, si poteva fare diversamente? Beh, sicuramente è un compromesso, il vero problema a mio parere è che si è arrivati a decidere praticamente sotto data, nel senso che mancano due settimane alla ripartenza della scuola. Era meglio piuttosto pensare anche altre soluzioni oltre a questo dell'80%, a mio parere ad esempio si poteva pensare ai mezzi privati, a quelle flotte private di autobus turistici che in questo momento hanno un grave problema dovuto proprio a questa crisi, potevano essere riutilizzati in qualche modo, cioè tramite gare, quindi trasparenti, per cercare di aumentare l'offerta. E poi c'erano soluzioni tecnologiche per cercare di aumentare la stessa offerta di trasporto pubblico locale e ottimizzazione dei flussi di persone all'interno appunto di questi mezzi, pensiamo soprattutto alle metropolitane. Quindi questa soluzione mi sembra molto semplicistica, un po' come definire congiunti i colleghi di lavoro o anche diciamo i compagni di scuola. La linea rossa di un po', insomma, delle ipocrisie italiane, potremmo dire. Andrea Giuricin, grazie per essere stato con noi. Ciao, buona giornata. Grazie a voi. E va bene, consoliamoci perché tra poco si aprono le porte del pomeriggio sportivo di Radio 24. Carlo Genta, ciao, ben ritrovato Carlo. Ciao Alessio, con cosa ti vuoi consolare? Spero non con la Ferrari. No, la Ferrari non credo, non moltissimo. No, anche perché si aspetta la Monza più deprimente, sì, dell'ultimo secolo di sempre, no? A porte chiuse con la Ferrari che non va, anche oggi ne parleremo naturalmente perché è uno degli argomenti di discussione, insieme ai vari spunti e temi su una Serie A che nasce domani a mezzogiorno, il varo dei calendari. I calendari, giusto? Che guardiamo in controluce attraverso i vari movimenti di mercato, aspettando anche la nazionale. C'è qualcosa che ti sta scaldando il cuore nelle ultime ore? È molto interessante il mercato del Milan, perché... Sì, è vero, molto attivo il Milan, sorprendentemente. Tonali. Tonali che non è un giocatore banale, cioè è uno dei migliori di questa nuova generazione. Forse col Covid, azzurra, tra l'altro. Non è chiarissimo, però l'annuncio ufficiale non c'è ancora stato, quindi sai, le solite presentazioni di rito, visite mediche eccetera eccetera, nonostante l'affare sia fatto, mentre l'Inter cerca usato sicuro da Vidal a Kanté, a Kolarov, gente pronta per vincere subito. La Juventus continua a ballare intorno ai nomi del prossimo centravanti, con ogni probabilità sarà Dzeko. Quindi attraverso tutto questo guardiamo in controluce il campionato, però ripeto, con il Milan che tra le conferme di Ibra e l'arrivo di Tonali, adesso si parla del ritorno, possiamo dire che spadroneggia in qualche modo. Beh, spadroneggia, insomma, sta costruendo un progetto sensato e interessante. Ok, grazie Carla, appuntamento con voi naturalmente dopo il giro delle 14. Adesso piccolo break e poi Giulia Crivelli, Effetto Mondo, tra un attimo.